dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cammino marcio di questa zanzarina di merda, e ma quante puntate, poi ma lo volete finire? Piglia su una vacanza, un mal di gola, una febbre, stai zitto, chiudi bottega. Parenzo, allora se incontro Parenzo lo frusto con l'ortica a culo nudo. Parenzo, o tiri fuori i coglioni o vai da Bariso. Ragazzi, appena finito un programma di economia, Parenzo, come sapete, no? Sì, certo. È appena finito qui su Radio 24 il programma di economia, quello che ci precede, però noi in realtà è rimasto qualcosa... Il portafoglio. No, è rimasto... Il telefonino ha lasciato. No, qua. Ci sono ancora alcune cose della borsa che non sono state dette. Cioè, per cui io direi di fare addirittura un aggiornamento di borsa prima, eh? Cioè, un aggiornamento di borsa perché mancano alcune cose. Borse in diretta. Fiat Chrysler più 12%. Scarpe Dr. Martin il più 12%. Rocco Siffredi dildo anale più 2%. Saugella igiene intima più 1%. Questi i principali titoli. Linea alla zanzara. Saugella. Ma chi sono questi aggiornamenti di borsa? Sono gli ultimi aggiornamenti di borsa, quelli che mancavano. Sì, Saugella, no. Diciamo che sono afferenti al tipo di trasmissione che qui viene come si dice, no? Irradiata, come avrebbero detto gli amici dei fascisti, irradiata dalle onde. A proposito di fascisti, c'è un assessore, no, un assessore, un vicepresidente della regione, sì. Veneto, della tua regione, sì. Il quale per compleanno, per festeggiare il compleanno, non si fa regalare una torta qualsiasi, no. Ma una torta in cui c'è la scritta SS, buon compleanno naturalmente, anche il fascio littorio. È il vicepresidente del Veneto, il signor Giorgetti, come ex Missino. Vabbè, come al solito tu dirai che è una vergogna, uno scandalo, cioè, ognuno festeggia il compleanno come cazzo vuole. Sì, se uno non vuole voglio usare troppe parole, se una sola. Dimmi. Vomito. Ma che vomito, vabbè, vomita. Una. Vabbè, ma scusa, ma uno non può farsi regalare una torta di compleanno con il può fascio Littorio sopra? Quello che gli pare. Il problema è che il vicepresidente può farlo, lo ha postato su Facebook compiaciuto, ringraziando questo e l'altro dettaglio, i camerati che vabbè, ringrazia i camerati. Adesso è proibita anche la parola camerati, dai. Non è proibito, ma a casa sua lui può far quel che vuole, può anche, figurati, bere l'olio di ricino se gli dà godimento. E invece che cosa? Non può postare su internet il fatto che riceve una torta con scritto SS sopra e chi se ne frega, dai. Sai dove può mettersela quella torta? Per dove quanto se la mi dove se la deve no, per quanto mi riguarda. Nel culo, se la deve mettere nel culo. Non l'ho detto. Beh. L'affetto che provo per questa persona mi fa arrivare a dire che lui con quella torta e quel fascio può farci qualunque uso che ritiene più opportuno. Vabbè. La cosa che vi permetto di criticare è il fatto che il vicepresidente della Regione Veneto ha postato orgoglioso questa roba. La torta Facebook, con scritto SS, rivendicandone la cosa dei camerati. Ecco, tutto qua. Poi intanto Marino rimane, la figura di merda è mondiale, cioè noi è divertente non sta storia. Ma sì, è molto divertente, ma noi non riusciamo nemmeno, siamo talmente privi sai di qualsiasi che fa bene secondo me. Ma che fa, ma può ma anche fare bene dal suo punto di vista, perché dal suo, no, sì, ma dal politico, suo punto di vista sicuro. Ma, anche ma ti pare normale che una città rimane appesa alle beghe interne al Partito Democratico? No, cioè la principale città italiana è rimasta appesa alle beghe del Partito Democratico. E ti pare normale che un presidente del Consiglio peraltro non è ma non vuole incontrare il sindaco, non lo vuole incontrare. Un presidente del Consiglio non è detto che peraltro mi può stare anche simpatico come qualcuno mi alle volte mi rinfaccia. Ti pare normale che questo signore qui da Cuba chieda le dimissioni di un sindaco regolarmente eletto e votato. L'ha chiesta da prima la dimissione, appunto, non da Cuba. Regolarmente, cioè. Beh, a Cuba di nuovo e chiede le dimissioni. Regolarmente eletto e votato dai suoi elettori. L'abbiamo detto tempo fa, sì. Però oggi detto tempo fa bene a resistere e a dire sia il mio consiglio comunale a sfiduciarmi. Fa benissimo, ha ragione Marino. Ho compiuto la mia scelta. Presento le mie dimissioni, sapendo che queste possono essere per legge ritirate entro 20 giorni. E questo è successo proprio alla vigilia, le ritira. Che te lo dissi, sì, ragazzi, accade, però io dico solo una cosa, no? Cioè, in Italia non c'è nulla di certo, almeno una cosa deve essere certo: chi comanda a Roma, sia al governo, abbiamo uno che non è stato eletto. Cioè, abbiamo uno che non è stato eletto come presidente del Consiglio. Certo, è legittimo perché il Parlamento ha votato la fiducia, quello che certo volete, però non è stato eletto. Il sindaco di Roma, eletto, viene sfiduciato in sostanza dal suo partito, perché la storia degli scontrini è tutta una scusa. Viene sfiduciato dal suo partito. Suo partito si dimette, poi decide di non dimettersi. Ma solo in Italia c'è una situazione del genere. In altri paesi chi governa è perché viene eletto, è perché è stato scelto dagli elettori, e Renzi non è stato scelto dagli elettori. In altri paesi il sindaco della capitale, quando decide di dimettersi, giusto o sbagliato che sia, poi si dimette, punto e basta. Qui invece abbiamo 20 giorni, ci ripenso, non ci ripenso, e voglio la sfiducia, non voglio la sfiducia. Ma chi pensa a governare Roma in tutto questo tempo? Posto che Roma si possa governare, magari si amministra bene anche da sola, senza un sindaco, mi viene questo sospetto. Io ritengo che ci sia un luogo, che è un luogo sacro per la democrazia, che è l'aula o di un Parlamento o di un Consiglio Comunale. Io sono assolutamente pronto a confrontarmi con la mia maggioranza, a illustrare quanto fatto, le cose positive, gli errori, la visione per il futuro, ma quello è il luogo della democrazia. Devo dire che mi fa anche un po' tenerezza Marino, mi fa anche un po' tenerezza questo sindaco che cerca di resistere perché Renzi non gli vuole parlare, eccetera, eccetera. Allora, c'è un notista politico che si chiama notista politico, un osservatore politico americano che è da molto tempo in Italia, che si chiama Friedman, il quale oggi ha dato dello scoreggione a Napolitano, del vecchio scoreggione. Devo dire la verità, in Italia può sembrare un'offesa, però insomma, può succedere che uno anziano scorreggi di più rispetto a una persona normale. No, ma io non entrerei nel merito di una discussione politica. Vabbè, comunque sentiamo Friedman. Non c'è dubbio che, come ho detto alla presentazione del libro a New York la settimana scorsa, ero con Johnny Riotta in un dibattito abbastanza feroce. Vedi che lo chiama Johnny veramente, lui a Riotta. Johnny Riotta. Johnny Riotta. Johnny Riotta. Ho litigato su Napolitano, vabbè. Perché io ho detto una cosa che in Italia mi hanno detto che non si può dire perché era volgare, non si può chiamare un ex presidente un vecchio scoraggione. Non ho nominato nessuno in questa conversazione qui in Italia. No, non abbiamo sentito comunque. Io non ho detto nulla. Tu non hai detto, io non ho sentito. No. Per e parlavo l'inglese. Vecchio scoreggione. Il problema è come l'ha detto in inglese? Ma non lo so come si dice in inglese. La flatulenza. Perché l'ha detto a New York. Non lo so. Abbiamo con noi Vittorio Feltri. Buonasera. A tutti. Ma scusa, la parola vecchio scoreggione, secondo te, Vittorio, è un'offesa? Beh, insomma. Ma non saprei dire, perché non sono un esperto di peti. No, non sei un esperto. Cioè, non li frequenti come cose. No, sì, non so. Cioè, io non li fai. Penso, diciamo, che tutto ciò che attiene all'intimità della persona non debba essere utilizzato né come offesa né come argomento di conversazione. Penso che ci sia di meglio. Pensi che per attaccare Napolitano dici piuttosto che vecchio scoreggione? Un vecchio comunista, sì, il cui passato conosciamo benissimo, conosciamo anche il presente, lo possiamo attaccare in tutti i modi e per ciò che ha fatto e per ciò che non ha fatto. Però non per il pannolone, dici. Ma diciamo, ecco, sì, vabbè, i pannoloni possono, sul pannolone si può anche fare una battuta, sì. Ma sul diciamo sul peto io mi asterrei da commenti. Ma chissà cosa è venuto in mente a Friedman in quel momento. È lui strano, dice sì. Che in inglese in realtà la parola vecchio scoreggione non è così insultante, indica uno stato di senilità. Sì, d'accordo, ma sia in Inghilterra, sia in America, sia in Italia, sì. La scorreggia, la scorreggia, non è sì, che c'è può, poco da fare. C'è poco da dare. Allora, però io sono sicuro che tu sei un po' incazzato, perché cioè non ti rode il culo per il fatto che Varoufakis, l'ex ministro delle finanze della Grecia, va in televisione, si fa pagare 1.000 euro al minuto, tu invece ci vai gratis? No, diciamo che scusa se te lo chiedo, signore, però il signore ha fatto benissimo, esatto, chiedere tanti quattrini, a pretenderli. Mi sembra meno logico che qualcuno glieli abbia dati, e questo qualcuno è Fazio, probabilmente non di sua spontanea volontà, ma anche dopo aver interpellato i dirigenti, sì, della RAI. Ecco, il fatto che a questo signore, che non mi sembra così importante, sia stata data una somma del genere per mostrare il suo volto non particolarmente attraente, mi sembra fuori da ogni logica. Ecco, ma scusa, ma da adesso in poi fai una cosa, no? Cioè, fate pagare pure te, no? Cioè, per ogni minuto, guarda, di televisione metti una tariffa, no? Difficilmente, io nella mia vita professionale non ho mai scritto neanche una cartolina gratis. A volte vado in televisione, non spessissimo, perché sono convinto che possa giovare un po' al giornale, sì, per il quale lavoro. Magari è una presunzione mia, magari è un'illusione, sì, però di promozione, lo faccio con ha ragione, questo spirito, lo fa... sì. A me non viene in tasca niente. Beh, però uno si potrebbe fare venire in mente questa idea dopo l'apparizione di Varoufakis, 1.000 euro al minuto. Tra l'altro, Parenzo, sì, io dico una cosa, no? A me quello che mi rode il culo sono due cose. Primo, sì, che... scusa, però i soldi della RAI sono come, esatto, quelli delle puttane, si danno a tutti quelli a cui conviene darli. Cioè, tu dici che... Non è la 7 che dà 25... Te lo immagini Cairo che dà 25 milioni? Ma figuriamoci, cioè, 25 mila euro... No. Cioè, solo la RAI che spende i soldi degli altri... Ne fotte. Sono soldi nostri, soprattutto sono soldi nostri, però io dico un'altra cosa, che tra l'altro abbiamo saputo di questa vicenda di Varoufakis e di 25.000 euro, 24.000 quanti sono, più first class, in viaggio in prima classe e spese di albergo. Come devi viaggiare con un mulo? No, ma tanto per chiarire le cose. Beh, no, il mulo potrebbe essere adatto all'uomo. No, ma perché questi qua che sono della sinistra, dell'estrema sinistra, perché non viaggiano in economy? Cioè, scusa, ma dovrebbero viaggiare in adesso, economy. Non ho capito, ma perché cioè, uno... Varoufakis, ma che predica, un comunista, che predica mangiare pane e cipolla. Ma no, ma uno così, siccome viaggi in economia, comunque lasciamo perdere. La cosa che mi scoccia di più, insegna nelle migliori università, è sposato con una figa pazzesca, c'ha una villa meravigliosa in Grecia, ma perché glielo non vabbè, questo conferma questo, tutto quello che si può pensare. Ma che se ne frega, ma poi ma voglio dire, è invidia la tua, scusami. No, ma si iscriva ai Fratelli d'Italia, no? Ma perché dovrebbe? Si iscriva a Forza Italia. Ma no, perché nella vostra idea uno di sinistra deve avere le pezze al culo un di e cose, stare con un mostro che ha l'alito pesante. Mentre no, uno nella vostra concezione, mentre uno di centrodestra. No, però ti dico una cosa, guarda, no, lo sai che cosa mi è venuto in mente oggi? Dopo aver letto i motivi ma dei viaggi, con una cozza, aspetta, lascia perdere, dopo i motivi dei viaggi di Varoufakis, ho letto bene tutti i motivi, no? Ed era sostanzialmente per spiegare al popolo, ai popoli europei, sì, come dice lui, frega, le ragioni dell'Europa cattiva contro la Grecia. Bravo, e che te fai pagare? Cioè, non te fai pagare per... Se è una tua missione questa qua, la tua missione politica, ideologica. Per me è un mito due volte se sei riuscito in questo capolavoro. Vabbè, un attimo. Scusa, ma guarda, questi signori di sinistra amano il popolo ma disprezzano la popolazione con la quale non vogliono avere a che fare. Ma è così, è così. In prima classe, vogliono essere retribuiti come Marchionne, insomma, li conosciamo, ma non è il primo che agisce in questo modo, cioè in contrasto con l'ideologia che professa, li conosciamo da sempre, sappiamo che ma c'è una contraddizione enorme. Lui era andato in giro a trasferire lo spirito della primavera di Atene al cuore dell'Europa, cioè te fai pagare 24.000 euro da Fazio, ma io ti do un calcio in culo, cioè per trasferire lo spirito, cioè per fare un'operazione di propaganda ci vai gratis e paghi pure, invece l'abbiamo pagato noi, infatti la BBC ci è andato gratis, fermi che c'è il traffico. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Per favore, datemi la mia dose quotidiana del nuovo Presidente della Repubblica, vai. Datemi la mia nuova dose di Sicignano, vai. Sicignano ieri a Matrix, Francesco Sicignano, il pensionato di Paprio Dadda, che ha sparato al ladro che stava per entrare a casa, o era entrato, chi se ne frega, tutte quisquilie, tutta roba da burocrati, tutta roba da sì, tutta roba da avvocato, sì, da avvocati che discutono, legge, si è sparato leggermente fuori da casa o ha sparato dentro, a me non me ne frega niente. Sicignano presidente della Repubblica, questa è la mia proposta. D'altra parte, insomma, non è che farebbe peggio, eh. Io non so perché dice, non capito, mi interessa. Io denuncio lo Stato per risarcimento danni. Ha capito Luca o non mi sente? Se mi fa parlare, allora no, io denuncio lo Stato italiano per risarcimento di danni, perché questo reato qui si poteva con una cazzata levarlo da proprio risolverlo. Questo fatto qui, guardi, la colpa è dello Stato. Vittorio, tu hai una pistola? Io sì. L'abbiamo già detto una volta, no? Che calibro? Sì, sì. Calibro? 7,65, dicono. Se entra... poi non è che mi intenda molto, no, di cioè, armi. Se però... entrano dentro casa tua, la useresti? Lì in campagna, a Bergamo? Beh, insomma, dipende dalle situazioni, perché è chiaro che se mi sono preso una pistola, ovviamente con tutti i permessi imposti dalla legge, è perché mi voglio difendere nel caso in cui ciò sia necessario. Allora io credo che un ladro che sceglie di fare questo mestiere, che è indubbiamente un mestiere pericoloso, quindi va incontro, diciamo, ai cosiddetti incerti del mestiere. Per un camionista gli incerti del mestiere sono quelli di schiantarsi sull'autostrada, di avere un incidente, insomma, di per un carpentiere il rischio di cadere dal sesto piano, per un ladro è quello di trovarsi una pallottola in fronte, insomma, si tratterebbe in fondo di un incidente sul lavoro. Uno che fa il ladro sa che va incontro a questi pericoli. Non capisco perché scandalizzarsi tanto. No, io infatti non sono scandalizzato per niente. No, ma non lo dico a te, lo dico in generale, mi sembra del tutto normale. D'altronde, se uno non si può difendere in casa sua, non può difendere i propri beni, vabbè, allora diciamo che quando secondo te non è va accolto con tutti gli onori. Secondo te non è importante stabilire poco dopo il cancello, prima del cancello, sopra le scale, all'interno della casa? Stupidaggini, anche quando si dice che la difesa deve essere proporzionata all'offesa, ma io non so quando... ricevo quando entra un ladro in casa mia, non so se abbia in tasca un cannone o un tirasassi, pertanto cerco di reagire nel modo più consono al momento. Io non ho capito. Fare il conto anche con l'emotività, insomma, uno basta che non entri in casa mia che non prenderà mai una schioppettata. Scusa un attimo, ma io non ho capito se tu hai paura di usare quella pistola che hai, oppure davanti a un ladro non avresti esitazioni. No, io devo dire che sono abbastanza, diciamo, esperto, nel senso che so sparare, ho fatto anche militare, quindi cercherei di colpirlo alle gambe, insomma, non è che gli sparerei in faccia cioè tenteresti, cercherei, però sai che quando si maneggia una pistola, tra l'altro le pistole hanno la tendenza, quando premi il grilletto, ad alzare il tiro, quindi è molto difficile. Ogni tanto ti eserciti o no? Ma sì, intanto vado al poligono, faccio qualche tiro, però non è che proprio sia appassionato di questa cosa, non lo sono affatto. Cerco di avere un po' di dimestichezza con l'arma, visto che la posseggo. Comunque ragazzi, la storia di Varoufakis è incredibile, più ci penso. Cioè, 25.000 euro, che tra l'altro ce l'ha detto lui, però, perché se non lo diceva però, lui... diciamoci la verità, ma per noi due, tu ed io... L'avremmo presi, un po' siamo invidiosi di questo. No, ti assicuro, no. Non mi danno neanche 250 euro, capite che mi come un pazzo in casa. E questo sì, ma io mi posso dire, non sono invidioso, però dico, è stato lui a dircelo, perché altrimenti la RAI non ce lo diceva. L'altro scandalo è questo, che lui, pungolato da giornali greci e inglesi, è stato costretto a rivelare i suoi redditi, i suoi guadagni, altrimenti la RAI, ma col cazzo che ce lo dice. Un coglione, se no non lo diceva. Ciao, a presto, giornale radio. Ciao. Sì, scusa, però i soldi della RAI sono come quelli delle puttane, si danno a tutti quelli a cui conviene darli. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento La Zanzara. Parlare per le scorregge, soltanto io mi faccio l'insulina per diabete, mi è andato un nuovo tipo nuovo di insulina, incomincio a far fare scorregge dalla mattina fino alla sera, io ne faccio quasi una trentina all'ora. Siamo ad alti livelli qua, eh? Sentite Marino quando gli chiedono se vuole incontrare Renzi in aeroporto, dice ho cose più serie da fare, perché poi alla fine il problema è quello, c'è Renzi che voleva fare fuori da tempo Marino, eletto, mentre Renzi non è stato eletto. Marino non ha più la fiducia del partito, almeno di moltissimo, di gran parte del Partito Democratico, e però è stato eletto direttamente, dunque un casino. Esatto. Però alla fine la contraddizione di Marino è quella che non si doveva dimettere. Una volta che tu annunci le dimissioni, poi non puoi rompere i coglioni perché la gente non ti segue più, non ti capisce. Se tu non ti dimettevi e dicevi mi sfiducino... Ma sai perché lui inizialmente si è dimesso? Ma no, per la vicenda... Lui inizialmente si è dimesso, no, perché pensava di essere indagato per la vicenda degli scontrini. È stato in procura, ha scoperto di non essere per ora indagato per la vicenda degli scontrini, è tornato dalla procura e ha detto sapete cos'è? Ma io allora... mica sono un bandito, mi posso... Certo, mi certo. Sfiducia. No, ma per questo, perché lui pensava di essere indagato inizialmente per quella vicenda. Sì, anche se fosse stato indagato comunque non si doveva dimettere, no? Fosse stato indagato lui però si sarebbe sentito lui... Tra l'altro mi dicono che domani sui giornali uscirà un'altra roba che riguarda Marino. Credo che potrebbe, molto probabilmente, sarà indagato per truffa. Sarà indagato per truffa da fonti che ho consultato oggi. Sì. Mi dicono che molto probabilmente sarà indagato domani. Qua, ci è sarà la truffa relativa agli scontrini? No. Sarà indagato per truffa per una vicenda che riguarda la sua Onlus, per alcune assunzioni fantasma nella sua Onlus. Una vicenda vecchia che è iniziata 2 anni fa quando fu eletto Marino. Lui si era detto estraneo. In realtà credo che, da quello che ho saputo, che molto probabilmente è iscritto nel registro degli indagati per truffa, e dunque si aggiungerà pure questa tegola, cioè di un sindaco che ritira le dimissioni ma nello stesso tempo è indagato o potrebbe essere indagato, lo dico con condizionale perché non voglio che mi arrivi, ce n'ho già tante di rottura di coglioni, pure una da Marino no, potrebbe essere indagato per truffa. È vero che vuole incontrare Renzi, che proverà a incontrarlo in aeroporto dal ritorno del viaggio in Sud America? Ho cose più serie che andare agli aeroporti in questi giorni. Lei sta facendo ancora il sindaco in sostanza. È il mio dovere, come lei sta facendo il giornalista. Buona giornata. Vuole continuare a farlo? Anche lei continuerà a fare il giornalista. Ma vogliamo ricordare le frasi di Olivero Toscani ieri su Daniela Santanchè, delle frasi molto pesanti qui alla Zanzara. I due si erano che certamente non sono, non hanno le stesse idee, sicuramente non si stanno simpatici, eccetera. Toscani cosa ha detto? Sgradevole. Ha detto delle frasi molto molto pesanti sul culo della Santanchè, eccetera, eccetera. No, la Santanchè c'ha un bel culo ancora, per la sua età non è male, un po' siliconato, un po' rifatto, insomma. Infatti mi domando, è molto meglio una donna piacevole, un bel culo che dice le cazzate, o una donna brutta che dice cose intelligenti? Mi domandavo guardando lei. Ma dicevo, fra le cazzate che dice sarebbe meglio stesse zitta e mi lasciasse toccare il culo. Poi non ho capito qual è il passaggio, è meglio che stia zitta così le posso toccare il culo? Cosa vuol dire? Non ho capito, boh. Cioè comunque voleva dire che è più vale più il culo, vale del cervello più. Diciamo, questa è la realtà, no? Mi sembra di capire di sì. Più o meno. Andiamo a Reggio Emilia. Gabriele, vai. Buonasera. Dimmi. Buonasera a tutti. Io sono anni che vi ascolto. Sì. Tutte le volte che vi ascolto in diretta ho sempre pensato, madonna che testa di cazzo Parenzo, fortuna che c'è Cruciani che un pochino bilancia. Sì. L'altra volta ha fatto un intervento Cruciani, madonna mi è venuto il brivido, mi sono venuti i brividi sulla schiena. Sì, e io mi auguro che Parenzo la possa un pochino portarla sulla ritta via. Le ritta faccio una domanda. Via è difficile, al massimo via, sulla retta. Via, mi perdoni, che sono inaiato, ho gli sgrisori, come diciamo qua a Reggio. Io abito in una città di campagna, sì. Ok? Ci sono le classiche ville di campagna in cui non ci sono le recinzioni, c'è il fosso, c'è il vialetto d'ingresso con la ghiaia, ok? Sì. Io cado in un fosso e mi faccio del male, sì. Non ho un cellulare, provo ad andare in una casa privata per suonare un campanello e chiedere un aiuto, e questo qui ha il diritto di tirare fuori una pistola e freddarmi sul posto. A me? Non dire puttanate. No, Gabriele, tu non vai alle due di notte. Non vai alle due di notte a chiedere aiuto bussando a una casa. Perché? Sono casi molto rari. Sono casi molto, però, molto rari. Caso molto raro, chissà perché. Innocente. È vero che in America, è vero che in America l'altro giorno un bambino ha preso una pistola lasciata dal padre in Indiana. Non so dove, ha sparato alla madre, alla zia, alla nonna. Non mi ricordo. È vero anche che c'è un altro caso in Italia di uno che ha preso una pistola, per carità, quelle sono, come dire, le conseguenze sono gli effetti collaterali della circolazione delle armi, su questo non c'è dubbio. Rispondi alla mia domanda, Cruciani, le tue parole sono state: io ho il diritto di difendere la mia proprietà. Ma non c'è dubbio, se uno tenta di entrare, non so quello che vuole fare, se vuole stuprare, se vuole uccidere, se vuole solo rubare, eccetera eccetera, innanzitutto per quello che mi riguarda sparo, cioè per quello che mi riguarda uno può sparare. Giusto, sì, assolutamente, così. Tu spari. Poi magari se quello lì davanti a te aveva mille ragioni possibili per trovarsi in quel posto lì, che poteva ma anche... Ma quali sarebbero le mille ragioni? Alle due di notte? Ma di che parli? Ma nessuno... Cruciani, vado a parlare con gli amici, prendo un po' la ciucca, cado nel fosso, non ho il cellulare, vado a cercare un soccorso e questo qui è il diritto di casi... la vita... Ma in un caso che Gabriele, può essere ma realtà, sono casi limite, dai. Questi qua non esistono, questi casi, ma dai, quando su. Il caso limite diventerà realtà, a chi si darà la colpa? A quelli come voi che dicono diamo le armi, Cruciani, madonna, stai parlando di cose, stai parlando di sulla linea di Buonanno, ma io non sono scusami se ti ho offesa, scusami Gabriele, a parte che io sono talmente laico e sono talmente aperto che non, se tu mi dici sulle pistole, a parte la comparsata in televisione eccetera, sono sulla stessa linea di Buonanno, non è che mi offendo della cosa. Beh, cioè non lo reputo non ho nulla di cui vergognarmi. Io posso essere d'accordo con chiunque se dice una cosa che condivido, non mi interessa il colore però politico, capisci, questa è la differenza, capisci? Cruciani, che se diamo la possibilità alla gente di togliere la vita a suo piacimento, ma questo già c'è adesso, la possibilità, come ricorda sempre Parenzo, sparare, Cruciani, ma liberalizziamo, stai dicendo delle cose che non esistono. Io sto dicendo semplicemente che già oggi è possibile, come ripete Parenzo da più giorni, è possibile difendersi sparando, probabilmente è possibile farlo anche nelle vicinanze della casa, questo non lo so, sarà ma non giù. È una logica, Cruciani, ma se succede qualcosa per cui io entro in una casa che non è recintata, sì. E questo qui per mille motivi ha il diritto di spararmi a me, padre di famiglia, ma tu non entri in una casa recintata alle due di notte, amico mio, se ma non per rubare, dai. Ma se mi perdo devo ancora chiedere questa storia. Se capita un incidente, va bene, dai Gabriele, bisogna stare attenti però con queste cose qua. Ciao, un ciao. Mezzo che la Raffaele radio. Brindisi, ciao, Raffaele, ciao, Brindisi, vai. Ciao, lotta. Raffaele, vai. Oh, sì, buonasera. Stefa. Pronto? Dai, dimmi. Volevo fare una domanda a Parenzo, se è possibile. Sì, qua, è qua. Eccoci. Allora, volevo forza, chiedergli se da quando stava a scuola, alle scuole elementari, scuole medie, superiori, sì, se ha mai litigato con i suoi compagni, visto che così, come si dice, fa raramente no, perché ogni volta che qualcuno la contraddice l'attacca, ma in un modo così, diciamo che nelle mie scuole c'era un basso tasso di coglioni. Vabbè, ma nel momento in cui lei, che è così, quando c'è un ampio tasso così istruito, perché non è istruito, proprio attacca, attacca gli altri, la gente sempre, cioè, da sempre. Raffaele, qual è Che cosa il coglione è trasversale. No, sia solo questo, perché che l'altra sera con quel signore che l'ha contraddetto l'ha non è che mi ha contraddetto, mi ha offeso, i disabili eccetera. No, non ha offeso usandolo i disabili. Non ha offeso, lei si è offeso perché l'ha attaccato direttamente. Questo non è vero, lei... ha offeso i disabili, ha detto ritardati, ti ha chiamato usando ritardato come, usando come insulto il termine ritardato. Vabbè, ma comunque è inutile che le spieghi niente, perché non mi interessa. Ritardato mentale, perché naturalmente uno offende come meglio può, come fa anche lei. Comunque, come meglio l'argomento può. È un altro. Sì. Io mi stavo chiedendo, sì, quando lei dice che nel momento in cui un signore che per difendersi a casa ha fatto lo sbaglio di sparare, per il suo bene viene indagato. Non per il suo bene, per capire che ci sono delle procedure, non per il suo bene, per capire quello che è successo. Sì, per quello che è successo. Esatto, ma non per il suo bene. Ma se alla fine del processo, come abbiamo visto con quel signore, 135.000 euro e più, deve farsi un po' di carcere, le sembra giusto che uno che sta a casa sua per i fatti suoi e gli vanno a rompere le scatole? Ripeto, il processo serve a capire. Qual è la... Qui non c'è neanche nessun processo nel caso questo del signore. Questo qua l'abbiamo capito, fermi che c'è la pubblicità, dai. Appunto. Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpaticoni. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. La Zanzara. Mamma mia, Parenzo, sto vedendo una foto veramente agghiacciante. Io sono una persona aperta, no? Però alcune cose mi fanno veramente impressione. Certe cose mi fanno impressione. Se tu apri adesso Dagospia, vedi. Sì, l'avevo fatto poco fa, l'ho fatto. È una foto incredibile questa qua. Cioè, non lo so, io non pensavo esistessero. Magari sarò indietro, eccetera. Sono un po'. Pensa a te, si ha scandalizzato te, figurati. No, non mi ha scandalizzato, però mi fa impressione. C'è una certa Buck Angel nata Susan. Vabbè, adesso non occorre spiegare. No, come no, occorre spiegare, sennò che abbiamo detto a falte, altrimenti non lo dicevo, no. Se vuole, se il lo guarda, palestrato, no? Noto nel mondo del porno come l'uomo con la fica. Cioè, è diventato, tra l'altro, regista di documentari sulla transizione. Cioè, questo qua è una donna che vuole diventare uomo. Questa è, sì, è una donna che vuole diventare uomo. Dunque, come vedete, questo corpo, diciamo ormai praticamente mascolino, no? Cioè, perché è tutto lui pelato con la barba, dunque roba di ormoni, roba di cure, no? Di medicine forti, di bombate fortissime, è muscoloso, con tatuato, eccetera, e poi invece dell'organo sessuale maschile, chiamiamolo così perché sono 19:36, c'è ancora la patatona bella, bella lì presente, è una cosa pazzesca, impressionante. Chissà Giovanardi se vede questa foto, eh? E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Ah no. Ambiente di maiali. Allora ragazzi, io ho bisogno ancora di questa dose. Ho bisogno non della dose di droga, perché non mi sono mai fatto nulla in vita mia. Ho bisogno della droga quotidiana di Sicignano, il mitico Francesco Sicignano, il pensionato di Paprio Dadda, che vorrei presidente della Repubblica assolutamente, nel più alto scranno, a dare lezioni su come ci si comporta, su come si può reagire, eccetera eccetera. Sicignano meglio di molti nostri politici. Ieri sera a Matrix. Mi viene a dire che lo Stato siamo noi. Se fossi, allora, dateci la facoltà allora di quel referendum, di decidere noi chi deve stare lì a difendermi. Con un braccialetto avremmo risolto il problema. Ragione sul non era qui. Elettronico. Allora, se ha ragione, lei mi paga, allora, perché è lei che ha creato rovinato. No, io dico lei intendo lo Stato. Lei ha rovinato lo Stato, ha rovinato tre famiglie e mi deve risarcire. Allora, punto. Ripeto. Poi vedremo se ho ragione o no. Vuole i soldi dallo Stato. Io no, non so perché dice non capito, mi interessa. Io denuncio lo Stato, spieghi, per risarcimento danni. Ha capito Luca o non mi sente? Se mi fa parlare, allora no, io denuncio lo Stato italiano per il risarcimento di danni, perché questo reato qui si poteva con una cazzata levarlo da proprio risolverlo. Questo fatto qui, guardi, la colpa è dello Stato. Guardi, io ho fatto il militare negli anni 70, non 90, ho sparato con la beretta, il FAL, il Garand, la mitragliatrice MG e con un cannone che sparava proiettili da 110 centimetri. se uno vuole delinquere non va a comprarsi l'arma e dire mi venda l'arma, me la registra che devo andare a fare una rapina. Non diciamo sempre le solite stronzate. Poi se la figlia con Sansonetti. Comunque questo qui è meraviglioso, è un perfetto uno. Uomo da talk show, questo. Ma è il numero uno pensionato assoluto. Pensionato. È il numero uno. Con la pistola. Ecco altro che talk show da Quirinale. Quel signore con la barba abbinato alla valigia Sansonite, che è Sansonetti, no? Perché io faccio così per ricordarmeli. Quel signore lì prenderà una querela da me, perché lui è andato in televisione a dire, a fare il bugiardo. Quello di quando arriva in televisione, dovete chiudere le porte e lasciarlo fuori. Cosa ha detto? Perché lei non può dare a dire, ha detto, l'ha sparato al cuore, ma quello è matto. Cioè lui non sa un cazzo. Samsonite, devo dire che è meraviglioso. Beh, a me fa poco ridere, anzi, no, crea, ma che non fa ridere, ma è stupendo, dai, è meraviglioso. No, sì, ma ce ne fossero 200 come se fosse Cicignano, una maschera, che no? Non ha paura degli intellettuali, della gente che sta negli studi televisivi, se ne sbatte i coglioni. Sansonetti, negli studi politici, televisivi non vedo intellettuali, ma francamente, in generale, quindi non c'è, dai, questo pericolo. Delle persone che si fanno tante pippe mentali, dai, è uno che se ne sbatte di dei ragionamenti raffinati delle persone che non hanno avuto nulla a che fare mai con un attacco da parte di un ladro. Se ne sbatte i coglioni, non ha timori differenziali, per questo mi piace. Se ne sbatte, questa è la realtà. Poi dice, io dico, la città di Milano negli anni 60, 70, 80 era bella, tranquilla, e mi tira fuori le stragi, ma non sono mica deficiente io, scusi, Ha capito il problema qual è? Che questa gente ha studiato troppo, gli ha fatto male al cervello, che vadano a farsi curare. Cioè, non ha paura di rispondere in televisione a uno che probabilmente ha studiato, c'ha la laurea, è nel mondo che conta, incontra le persone di un certo tipo. Questo qua è un pensionato, va lì e ti fa un culo così. Cioè, questa è la realtà, questa è la realtà. Vabbè, ragazzi, Antonio da Cremona, dai. Antonio, ciao. Vai. Ciao, mi senti bene? Sì, ti sento, insomma, bene, no, però... Ascolta, io ho un'esperienza negativa dalla mia vita. Cioè? Comunque volevo, adesso ti spiego, vabbè, ti spiego subito. Sono 15 giorni che vi sento su Stricignano. Sì. E tante persone sono intervenute, però sì. Diciamo nessun ladro ti ha chiamato. Nessun ladro, cioè tu sei un ladro allora? No, lo ero. Cioè, hai fatto il ladro di che tipo? Di appartamenti? Ah, bravo. Cioè hai fatto il topo di appartamenti. È italiano, albanese, rom? C'è stato... No, io sono italiano. Italiano, certo. Italiano, sì. C'è stata una fase della mia vita che la testa mi diceva così. Premetto che sono di buona famiglia, sono stato istruito, ho fatto le scuole. Sì. Sono 30 anni che lavoro, oggi ho una famiglia e tutto. Me ne vergogno ed è la prima volta che ne parlo dopo 30 anni. Cioè, spiegami una cosa, tu hai fatto per quanti anni il topo d'appartamento? Sì, 2 o 3 anni. Due o tre anni. Avevi bisogno oppure lo facevi così per l'adrenalina? Devo essere sincero, no. Non avevi bisogno, perché lo facevi? Per l'adrenalina, per che cosa? Penso di sì, non so, non avevo conosciuto uno militare sì. Che lo faceva. Sì. Mi ha trascinato 2 volte e vabbè. Ma armato lo faceva così. Le rapine? Sai che ha la voce uguale all'Apo Elkan? Cioè Antonio, ha la voce uguale all'Apo più Elkan. Vecchia, più anziana. Sì, ma ha fatto con l'arma, quello che era armato quando faceva le rapine? No, assolutamente. Io in redazione ho detto, glielo dico chiaramente. Cioè, quando hai chiamato con... prima, sì. Alla centralinista. 2 giorni fa, sì, sto sì. Con quello che ha fatto Sicignano. Sì. Perché è giusto. Perché un ladro non deve entrare quando ci sono persone. Cioè tu da ladro che ha fatto gli appartamenti, quanti furti hai fatto in appartamento? Sì. Che ne so, 10, 20? Una ventina al massimo. Una ventina? Beh, al massimo. Ma e galera quanta ne hai fatta? Ma io ho pagato per quello che non ho commesso. Cioè? È un paradosso, però vabbè. E avevo venduto del me che a un ricettatore, mi ha pagato con un assegno falso. Sì. E ho pagato per l'assegno che ho ricevuto, ma non per quello che avevo fatto. Cioè non hai mai per gli appartamenti non hai mai pagato? Per no, i furti? No, non ho mai pagato. E non hai mai confessato dunque? No. Solo mia moglie, quando ho conosciuto mia moglie, gli avevi detto a lei, gliene ho parlato prima che magari si coinvolgesse completamente. Ma quanti, no? Quanto hai fregato parlato... in tutto? Quanti soldi ti sei fatto con gli appartamenti? E soprattutto dove? In quale raggio d'azione? Ma in quale sto città? Parlando che c'erano, sto parlando che c'erano le lire, ma non. Vabbè, più o meno, quanto hai fatto? Non so, 10 milioni, 20 milioni di roba tra, rivendendo quelle le cose. Ma che... là, cioè per dire, saranno stati 300, 400 milioni di lire. Beh, insomma, beh, 300, 400 milioni di lire all'epoca erano notevoli. Comunque, vabbè, tu hai, ti sei fatto, sì, un po' di furto, una ventina di anni. Li spendi anche. Sì, no, un po' di appartamenti. Ti sei fatto un po' di appartamenti e adesso cosa dici? No, io adesso ho una vita più che normale, lavoro nella sicurezza. Mm. Volevo dirti che... Come nella sicurezza? Scusa, spiegami. Fanno... Allora, tutte le aziende, anche chi fa le cassaforti, sì, si affidano a persone che le ha violate. Ah, benissimo. Tu lavori in un'azienda di sicurezza e loro sanno il tuo passato, sì, evidentemente, o no? Certo. Eh beh, l'hanno presa per quello, curriculum eccellente. Che ne so, italiana, straniera? Curriculum d'eccezione. No, cioè, l'azienda è straniera. Io rientro tutta le sera a quest'ora, lavoro in Svizzera. Sì. E io dico che un appartamento io so difenderlo anche con spendendo 100 euro. Sì. Non migliaia di euro per mettere degli antifurti che poi non servono. E come lo difendi con 100 euro? Scusami. Interessante questo. Ma guarda, ascolta. Tu prendi un appartamento, ha sempre delle zone un po' vulnerabili, un po' particolari, diciamo, zone buie, no? Sì. Allora, spendi 30 euro, prendi due timer, sì, li colleghi a un interruttore, sì, e tipo le zone più, le ore più calde sono dalle 5 alle 11 di sera. Sì. Tu decidi che ogni 15 minuti magari la luce si accende per 20 secondi, si spegne. Poi la sposta di 20. E dunque? E, ah sì, per disincentivare, per far vedere al ladro, certo, chiaro, sì, sì, sì. Bravo, vede che sa che c'è qualcuno in casa. Come se ci fosse qualcuno in casa. Alcuni se ne fottono, se c'è qualcuno in casa. Sì, sì, sì, e infatti quelli che se ne fottono devi sparargli. Ah, tu dici, comunque tu sei d'accordo col fatto che si possa sparare? Certo, ma ci mancherebbe. Certo, io l'ho fatto, se mi sparavano sono sicuro al 100%. Che mia mamma e mio papà mi avrebbero fatto dare la benedizione dal prete, mi avrebbero portato dritti al cimitero, non mi avrebbero portato in chiesa, assolutamente. Cioè, no, non dico che sarebbero stati contenti, però no, avrebbero detto te la sei cercata. Ma certo, ma è normale. Beh, è normale, perché sì. Cioè, è normale, perché uno quando fa un qualcosa che non deve fare, sai, la medaglia ha due facce. Senti, tu non andrebbe fatto. Dovrebbe intervenire il capo dello Stato, sì, e nominarlo senatore a vita. Bravo, bravo. Lui, eccone un altro. Bravo, lui ha già la sua condanna. Ha la sua condanna per tutto il resto della sua vita, il rimorso, perché la figura, quel che ha fatto, se lo troverà sempre davanti. Dunque. E deve essere tutelato da quella gente lì che, ascolta, lui la casa l'ha comprata. Che sia l'appartamento o il giardino è suo e ha tutto il diritto per difendere quel che è suo. Scusa Antonio, ma tu ti fossi trovato nella stessa situazione, immagino che le armi le sai maneggiare, no? Anche se magari in quelle rapine non le hai usate. Nella stessa situazione sua che cosa facevi? Sparavi sicuro? Ma certo, ma io gli avrei sparato due colpi per assicurarmi che era morto. Cioè prima il colpo, prima gli avresti sparato, poi una volta per terra? Gli avrei sparato ancora. Così, per e finirlo. Agli certo, agli altri due non avrei sparato per aria, ma gli avrei sparato proprio a loro, perché erano in casa mia. Io te lo dico in tutta sincerità, sì, che quel che ha subito Sicignano l'ho subito anch'io personalmente. Che ma tu che fai adesso? Scusa, che fai adesso? Allora, io adesso lavoro in Svizzera, però mia moglie è un'imprenditrice, sì, nel settore delle slot. Sì. Allora, noi abbiamo subito, lei ha subito, diciamo, 81 furti in 16 mesi, sì, nei vari locali. Sì. Perché gli albanesi, i rumeni così, entrano in macchina, sfondano le vetrine, caricano le macchine e se ne vanno. Sì. Le classiche macchine mangia soldi, no? Sì. E allora, io mi sono messo dalla parte opposta, dico, cazzo, mi viene il mal di pancia a me, a quante persone ho fatto venire il mal di pancia io? Quindi... Guarda che è una sofferenza. No, ma immagino tu che l'hai provocata questa sofferenza, adesso, adesso un po' la si potrebbe dire che te sta bene, amico mio. Sì, ma volessi essere cattivo con i tuoi confronti, magari lo sono pure. Cioè, hai provocato tanta sofferenza alla gente, hai fregato un sacco di soldi, l'hai pure fatta franca perché dici che alla fine non, certo, l'hai, non l'hai pagata, sì, e adesso subisci i furti perché, tu, perché sei nelle slot machine, tua moglie fa l'imprenditrice, sì, venduto tu. E qualche, sì, e qualche, sì, piccola, ma... rapina l'hai subita pure tu. Certo, l'abbiamo subita, l'abbiamo pagata, il mal di pancia, allora quel che ho provato io, ho immaginato, ho detto cazzo, gli altri gli è venuto molto più forte, perché se a me portano via dei soldi, moneta, macchine, così, se la moneta va in banca, la riprendi, le macchine vai e te le ricompri, sì, ma andare a portare via degli oggetti d'oro, come mi è capitato purtroppo, ok? È la prima volta che ne parlo in 30 anni. Sì. Dico, la gente, quando leggo anche sul giornale che ci piange sopra, mi verrebbe voglia quasi di piangerci sopra anch'io. Però quell'individuo che ho conosciuto 35 anni fa, quando ho fatto il militare, sì, lui era un ladro di professione. Che fine ha fatto? Fai quello che vuoi, ma penso che rubi ancora. Non lo so. Ma oggi quanti anni hai tu? 55, 56? 55. 55. Hai fatto? 55. Dunque, per quanti anni? E lui mi ha detto. Sì. Lui mi ha detto: fai quello che vuoi, ok? Se vuoi rubare, farlo, perché delle volte ti diverti anche. Mi ha detto: sì, vabbè. Ma, però non entrare mai in casa quando c'è una sola persona. Perché? E quando vedi arrivare qualcuno, ne devi andare. Perché non si deve fare. Purtroppo la delinquenza, come lo ero, cioè, io tu prima... Dici, tu dici che una volta c'era una certa etica, non si toccavano le persone, eccetera, certo, eccetera. Certo. Vabbè, alcuni, certo, l'avevano, altri, certo, no. Non è che tutti l'avevano. No, magari il tuo amico e tu lascia ce l'avevi. Lascia perdere che da 15 anni a questa parte... Tu dici che gli, diciamo, slavi, gli slavi hanno portato la... Bravo. Questi se ne sbattono proprio. Questi non gliene frega niente. Ma sai cosa vuol dire niente? È gente pericolosa, belligerante, cresciuta nella guerra. Cioè, non so se riesci a capirmi. No, ho capito, cioè, ho capito. Hanno il pelo sullo stomaco. Quindi, siciliano, ma che lo faccia, ma lo rifaccia anche. Va bene, caro, grazie. Grazie, Antonio, di questa testimonianza. Dimmi, che c'è? Faresti? Faresti? Faresti, stavi dicendo? No, lui l'avrei nominato senatore a vita. E quello di Vicenza, il benzinaio, il suo portaborse. Ciao, a presto, ciao. Pungete. La zanzara. Beh, devo dire, caro Parenzo, grande la testimonianza di questo ex ladro. Spero che sia vera, ma credo, sì, che qualcuno l'ha controllata, perché ci ha chiamato ieri, poi stasera ha richiamato, ieri non c'era tempo. Credo che sia tutto vero. Questo ex ladro, il quale dice che siciliano dovrebbe essere fatto senatore a vita, io ho detto presidente della Repubblica, lui senatore a vita. Beh, ti sei trovato d'accordo con l'ex ladro, bene? Beh, sì, d'accordo. L'ex ladro che però ti diceva, ti parlava della sua esperienza. Ma abbiamo con noi Maurizio Gasparri, buonasera. Buonasera a voi, come va? Bene, quanto tempo? Non mi chiamate più. Hai ragione, Maurizio, hai ragione. Scusate. Chiamiamo Varuf, perché costi un po' meno di Varufakis. Costi meno di Varufakis. Io costo zero, se no poi ci credono, costo zero. Sì, certo, questo non c'è dubbio. Varufakis, 24.000 euro. Proprio veramente. Ma sarebbe da dire quanto siete disposti a pagare per avere ospite, questo è il grande sondaggio di questa sera, per avere ospite Gasparri, anche a cena ad esempio, no? Questa è una campagna. Ci sarà qualcuno. No, appunto, questo io lo farei per beneficenza, se qualcuno è disposto a pagare devolviamo il chiamate per beneficenza. Ma so, tu lo sai, tu quanto pagheresti tu per avere Gasparri a cena? Adesso voglio dire la verità. No, Gasparri, ma siamo sinceri. L'unica cosa che si può dire, no, non pagherei per avere Gasparri a cena. Non pagherei. Ma figuriamoci. Parenzo no. Però no, scusa, no. Maurizio, dimmi una cosa. La vicenda di Varoufakis, tu hai già detto ieri dovrebbe pagare lui, eccetera, eccetera. Ma perché, cos'è che ti fa incazzare? Perché in fin dei conti uno potrebbe dire è uno che Endemol, la RAI valutano quanto può valere una persona, esatto, no? Per l'ascolto, per tutto, e pagano la presenza. Ma poi c'è sempre stata la risorsa ospiti. Perché allora, intanto Varoufakis è un semipolitico scartato perfino da Tsipras, era uno che teorizzava il comunismo, il più comunismo che non c'è, ed è diventato un pagliaccio system che passa da un convegno a una televisione per 24.000 euro. Quindi, primo, contraddizione di Varoufakis con tutte le fregnacce che ha predicato in Grecia, c'erano quelli che partivano, Grillo dall'Italia, andiamo da Tsipras e da Varoufakis, l'ha scaricato perfino a Tsipras. Poi la RAI chiede alla gente il canone, pagamenti, io capisco, Sofia Loren fa 80 anni, una star, e tu paghi per avere questa stella che attira pubblicità, ma Varoufakis, che è un semipolitico fallito, 24.000 euro, poi dice ma ha pagato Endemol, ma la RAI paga Endemol. Ma no, ma certo, quella è una scusa, quella di Endemol è una cosa ridicola. La cosa di oggi della RAI è stata patetica, prima si sono cagati sotto dopo le contestazioni che gli abbiamo fatto in commissione di vigilanza ieri, hanno detto no, hanno chiuso la stalla, sì così è, hanno chiuso la stalla quando i buoi erano scappati e hanno detto oggi basta queste robe, anzi prima hanno detto ha pagato Endemol, non noi, ma la RAI paga Endemol, si faccia dei falchi dai pagamenti che fa la Endemol questi 24.000 euro, poi dopo hanno fatto, resisi conto della risposta ridicola che hanno emesso, che hanno oggi fatto? Hanno detto no, basta, nessuno più, non si pagano né politici né ex politici. No, ma quello c'era già, ma quello c'era già, infatti, ma l'hanno ribadito in maniera confusa. No, ma infatti aspetta un attimo che c'è la pubblicità. La cosa incredibile di oggi della RAI è che dice abbiamo fatto regole più stringenti per i politici, ma che cazzo c'entra? I politici già quando vanno in televisione non possono essere pagati. Io mi ricordo l'amico Sgarbi che ogni volta dice ma è una vergogna eccetera, io non sono più politico, non faccio, magari è consigliere comunale là, chiede un compenso e non viene pagato. Dunque la RAI, il problema è molto semplice, Varoufakis è andato gratis alla BBC ed è stato pagato dalla RAI. Su questa cosa bisogna dare una spiegazione, perché sono soldi nostri, dai. La Zanzara. Ci sarà l'obbligo, ci sarà l'obbligo di Gay Pride. Gay Pride è obbligatorio per tutti. Già vedo Parenzo sul camion, che sculetta. Abbiamo con noi la prima volta dall'inizio della stagione Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. Eccoci qua, Parenzo, ma ci sei? Dimmi. È un po' come averlo tutti i giorni Maurizio Gasparri, cioè, è vero che sentiamo, da noi, perché mandiamo sempre le cose registrate da... e tutto. Esatto, da noi mancava da tempo. E non mi pagate neanche, gratis. No, gratis, sempre gratis. Ripeto l'appello agli ascoltatori 800 24 00 24, compagni e camerati, chiamate, o anche amici democristiani, chiamate, quanto siete disposti a pagare per avere Maurizio Gasparri magari a cena, per un tè, per un caffè, oppure perché anche se dovrebbero pagare, scusa, che devolverebbe in beneficenza l'eventuale ricavato. No, ma io voglio chiedere quanto uno, tutti hanno un prezzo, no? Quanto sono disposti a pagare? Beh, io devo dire una cosa, a me della vicenda Varoufakis mi fanno incazzare tre cose, te le elenco rapidamente. Siete degli ipocriti. No, ma te le elenco ipocriti. È stato Varoufakis a rivelare le cose, non la RAI. Dunque abbiamo pure subito questo smacco. È stato un pirla. No, lo smacco di Varoufakis, il quale, anzi la RAI che non ha trasparenza, mentre Varoufakis dopo pungolato dai giornali. Aspetta, prima cosa. La questione è diversa, domanda tutte e due. Putin, io ad esempio, se lavorassi in RAI... Ma Putin è diverso, amico mio. Aspetta un attimo. Putin non si farebbe pagare per un'intervista, magari da ex si farebbe... Prendiamo da ex. Se la RAI pagasse 35-40 mila euro, che so io, a Putin per un'intervista, ma io non mi scandalizzerei se poi ci fosse, come fosse un'intervista bella che fa ascolto, eccetera. Ora, fa ridere perché Varoufakis uno dice è sfigato. È andato gratis alla BBC, non è ma quello. Appunto, ma chi se ne frega? Varoufakis è andato gratis alla BBC e la RAI spende direttamente o indirettamente 24 mila miliardi. Presa consorzio in bocca, prima dice una roba, hanno pagato gli altri e poi fa il divieto. Dimostra che attualmente la RAI, a livello di direttore generale, ha una conduzione incerta. Vabbè, questo mica l'ha deciso lui, dai. No, è perché dovrebbero saperlo. Quando c'è una spesa ingente, quella lo è, dovrebbero anche produttori esterni, conduttori, informare capi struttura, vice direttore, direttore. Vabbè, quello è un altro discorso. Ma così funziona. Sono anche soldi, non sono l'altra cosa è incredibile. Oltre il valore di Varoufakis, che dovrebbe pagare lui per andare in televisione con tutte le fesserie che ha detto, l'hanno cacciato. Beh, però comunque era un protagonista. Era un protagonista. Sì, vabbè, ma è un pagliaccio, su, dai. Vabbè, però Maurizio era... Marino per andare in televisione. Quello sì, può darsi pure che si farà pagare, una volta che non sarà più sindaco. Fa lo scontrino, come ha fatto a Pittsburgh al ristorante. lui sarebbe capace di fare anche una fattura. No, ma però guarda, guarda che secondo me una volta che uno non fa più il sindaco di Roma, potrebbe, è normale in America per esempio farsi pagare per fare le conferenze eccetera eccetera. Ho capito, ma questo succede, ma anche Martelli quando ha smesso di fare il politico per un po' di tempo ha fatto il conduttore televisivo, è un'altra vita, c'è un'interruzione, uno fa un'altra vita e decide. No, infatti, io credo che io contesto, ma Varoufakis è ancora di fatto è stato invitato perché era un soggetto politico, non perché sì, era diventato uno scrittore. Sì. E poi non vale 24.000 euro, è uno che ha detto fesserie e squipedali, perfino Tsipras che è un esponente di estrema sinistra lo ha scaricato, si sono decisamente abbandonati, quindi francamente secondo me poi lo scandalo è Fazio, parliamone un po', che mi dicono che prenda 2 milioni l'anno, dicono, dicono prende 20.000 euro a puntata, ecco, ti sta bene 20.000 euro a puntata, ma non lo so se vale, bisogna quotarla, può darsi che vada, ma Fazio non vale 2 milioni, poi fanno tutti i predicatori pauperisti, poveri immigrati, povero clandestino Fazio con la lacrima sul ciglio, ma dia metà dello stipendio agli immigrati poveri invece di fare il predicatore ipocrita, qual è? Vabbè, dia, scusami, che c'entra? Come ma perché? Ma è, vuol perché dire? Sono predicatori con la pancia piena e le tasche gonfie, è facile fare il retore della predicazione terzomondista. Fazio, dai metà stipendio, cioè, ci paghiamo un quarto del, del Parlamento con Fazio. Vabbè, adesso esageriamo, dai, mori, dai. Come no? Ma no, ma dai, ma è un professionista quotato, sì, e prende quella cifra lì. Però siccome fa il progressista, terzomondista, filo immigrato, aiuti un po' di poveri abbandonati del terzo mondo, non mi risulta che lo faccia, perché questi fanno come tanti eroi della sinistra, predicano bene e razzolano male, come Varoufakis, similia cum similibus. Allora, cioè sono personaggi, cioè, che fanno che hanno invitato tutti i nomi di sinistra e poi si riempiono le tasche con soldi pubblici, perché poi la Rai poi adesso faccio dirà io faccio attirare la pubblicità, ma se mettono anche Rambo, si è visto che in televisione Rambo fa più ascolto di tanti. Comunque il problema di Varoufakis è molto semplice, ed è questo: quando uno si mette in testa di girare il mondo per trasferire, come dice lui, lo spirito della primavera di Atene al cuore dell'Europa, quando uno dice che vuole far brillare, no, perché questo era l'intento di quel tour che ha fatto, far brillare un'ambulanza in questi casi, sì, quella sempre, far brillare la luce della trasparenza sulle decisioni europee, poi non ti puoi fare pagare, amico mio, perché altrimenti sei un buffone. Questo è il problema, cioè, perciò sono tutti degli ipocriti, fanno i predicatori del, e poi becchi 28.000 euro a Singapore, 24.000, ma che c'è, lui però di lavoro adesso fa questa roba, non qui fa questo, e questo è il punto, come se non si è mai avesse presentato la fattura a Fidel Castro dopo la rivoluzione. Questa è una grande battuta, questo è molto divertente. A proposito, io non ho sentito non ho sentito da parte di Renzi una parola sul regime di Castro, questo mi ha molto stupito, a parte che credo che non lo sappia, crede che sia un calciatore, ma no, argentino, ma no, ma poi lui gli va bene tutto, Castro, Stalin, purché lo sa, ma guardi che Castro, guardi anche Castro ha avuto tante responsabilità che sono state cancellate, e perfino anche Che Guevara, io prima ho fatto una battuta, ma Che Guevara è stato uno che ha contribuito a persecuzioni, a uccisioni, insomma, voglia, lo so che molti pure i gay, pure contro i gay, era un omofobo, un uomo persecutore, insomma, cioè, diciamo, al confronto tu eri un novellino, diciamo, a proposito dei gay. Io rispetto tutti, sono contro il matrimonio ma e le adozioni, ma non è che sono come Che Guevara che li perseguitava, insomma. Senti una cosa, ma a Roma, beh, Marino, sta succedendo un casino. Io sono convinto, Parenzo, che in realtà Gasparri e il centrodestra a Roma eccetera sia quasi contento di questa situazione. C'è più fanno a botte, più certo, sinceramente il PD si ridica. Lo scontro all'interno del PD dimostra che loro che siano eretti anche lì a moralizzatori, quello che moralizzava Marino è finito lì con gli scontrini, le fatture, non lo so se vere, false, giustificate, comunque una fine ingloriosa. E il PD, cioè lei pensi Orfini, presidente del PD, ma lei c'ha presente un partito che era guidato da Berlinguer, da Natta, ma perfino Occhetto, Napolitano, dove gli altri, mo c'hanno Orfini. Vabbè, che posso dire una verità? Beh, Orfini che è peggio c'è di Marino. Perché? Come perché è stato incapace di guidare questa situazione? Chieda a quelli del PD cosa pensano di Orfini. Prima ha fatto di Marino un eroe, il baluardo della moralità, adesso non sanno come disfarsene e non sanno come cacciarlo via. Ma un partito che si mette come presidente, perché almeno cioè, tu dici, è un Orfini comico, è inadeguato, è un comico brillante prestato alla politica. Orfini è il nulla proprio totale, il nulla totale, dici, ma li date c'è Togliatti e Berlinguer. Vabbè, che ce l'hanno pesi diversi. Devo dire che è sempre il numero uno in queste cose, però Gasparri. Cioè, Togliatti a Orfini, insomma, voglio dire. Cioè, ti dici che tu che sei un vecchio lupo di mare della politica italiana ormai, no? Cioè, sì, era meglio il PC di Orfini, dici te. Era ma meglio. Non c'è dubbio, ma per carità, insomma. Orfini viene dalla storia di quel partito. Vabbè, che c'è? Dalla storia, diciamo dalla cronaca, insomma. Dai. Dalla cronaca. Senti una cosa, ma a Roma, se tu dovessi scegliere Meloni oppure Marchini, chi sceglieresti? Vabbè, sono entrambi buoni candidati, però uno dei due, perché se vanno tutti e due in campo c'è il rischio che al ballottaggio vabbè, d'accordo. Uno della sinistra. Ma lui Meloni, ovvio, scusami. Non lo so, però. Ma io stimo la Meloni, la vedo anche là, la vedo molto incerta, mentre Marchini se la sente. Come mai incerta? Come mai incerta? Perché avverte la responsabilità della prova del genere. Forse pensa che le polemiche riguardanti la precedente sindacatura di Alemanno si riverserebbero su di lei. L'altra settimana è andato a fare un'intervista alla televisione, appena ha criticato un po' Alemanno dicendo che non è stato un buon sindaco, Alemanno gli ha subito scaricato. L'hanno pizzicata che ha parcheggiato fuori, ha parcheggiato la macchina, eccetera. Ma no, quello non l'ho saputo. Io parlo della politica. No, per Alemanno dire. Ha rimbeccato. Allora, lei forse farebbe una campagna elettorale molto condizionata dal recente passato. E quindi probabilmente questo ha un po' di paura. È pensieroso, no, paura, no, è consapevole. Dopodiché Marchini se la sente, però ecco, io dico in romano, gli regge la pompa, cioè? Fa il sindaco di Roma, cioè ce la fa, gli regge la pompa, vuol dire ti regge proprio il cuore. Quindi voglio dire, insomma, proporsi oggi, dopo la vicenda del centrodestra molto sofferta, dopo Marino che è stata una tragedia, e dopo fare il sindaco di Roma è una cosa complicata, quindi chi si propone si deve guardare davanti allo specchio un quarto d'ora e poi dopo un quarto d'ora risponde. Sì, ce la faccio, me la regge la pompa. Quindi io lo dico a Marchini, a Meloni, a chiunque. Ecco, fatevi una domanda. Però Marchini alla fine si potrebbe candidare pure dall'altra parte. Questa è la realtà. Marchini è un civico un po' con una storia di sinistra e un approdo in questi ultimi anni. Vabbè, un'ultima cosa, Mori, ma è fatta ormai. Quest'anno è fatta. Per voi è fatta. Ma la Roma, no, si parla della Roma, no, facciamo gli scongiuri. Tocca un po'. C'è il Napoli che è molto forte, non lo sottovalutare. Tu, se vince lo scudetto, che fai? Fai una cosa, non dico alla Ferilli, no, alla Ferilli, ma di una cosa, dimmi un po', se la Roma dovesse vincere lo scudetto, che fai? Che faccio? Una capriola in pubblico? Ma no, fai qualcosa, cioè fai, che ne so, cioè... faccio il bagno nel fontanone del Gianicolo. Vabbè, il bagno nel fontanone del Gianicolo, vabbè, quello è poco. Il bagno nel fontanone del Gianicolo. Chiedendo il permesso alle autorità costituite, perché credo che sì, ci sia una multa. Ma che multa, sì, multa quando c'è lo scudetto, dai. Ma qualcosa, sì, che ne so, cioè, baci Parenzo in bocca, baci Parenzo in bocca. Questo mi pare un po'. Baci Parenzo in bocca. La moglie di Parenzo, che è molto carina. No, baci Parenzo in bocca, guardi Gaspari, grazie. Se Parenzo mi autorizza, un casto bacio. No, vabbè, no. Ma non è una punizione quella. Ma quella non è una cosa. Ma quella non è una punizione, scusi. Bacio Giovanardi in bocca. Aspetta, ciao. Se la Roma vince lo scudetto, bacio Giovanardi sulle labbra. Bacio Giovanardi sulle labbra. Ah sì, questo è buono. Giovanardi sulle labbra. Così ci diranno che siamo gay. No, no. E appunto, dico, fai una cosa. Una punizione ci deve essere. Cioè, la Roma bacio, come si chiama quella che adesso fa 007, che c'è la Bellucci. Vabbè, ma quella non sono punizioni, quella è facile. 50 anni, no, scusa Maurizio, bisogna arrivare a una conclusione di questa scommessa. Se la Roma vince lo scudetto, tu devi fare una cosa molto gay friendly. Sì, è per forza, perché altrimenti è la legge del contrappasso. Un abbraccio stretto con Gervinho in curva. Che abbraccio con Gervinho? Bacio, che ne so, bacio Gervinho sulla bocca, limono con Gervinho, limono con Garcia. No, ma come limono no? Limono con Garcia, no, limono, che cosa posso fare? No. Abrahamè morto sulle spalle Totti un giro di campo. Ma quello è una cosa, ma quello è uno. Ma quello è uno, per te un onore al limite, mica è una punizione. Dai, su. Vabbè, ci penso, voi mi richiamate tra una settimana e ci pensiamo. Una cosa gay friendly, una cosa molto gay friendly. Devi fare. Facciamo come quesito, così mi chiamate un'altra volta. Ci pensiamo su. Vabbè, una cosa gay friendly. Esatto. Ciao. Ci pensiamo. Ciao. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Stufe, caldaie termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Carmine da Milano, vai 800240024, carichi ragazzi, carichi, sono ancora le 20:17, abbiamo un sacco di roba. Vai Carmine. Ciao Crucian, ciao Parenzo, buonasera. Dimmi. Allora, senti un bacchettino Crucian, io ex rapinatore. Pure tu? Ma che cazzo è stasera? Cioè quello che rapinava, faceva il topo d'appartamento? Ci dovevi dare la parola stasera, è nostro, mi dispiace Crucian. Cioè tutti i rapinatori, tutti gli ex galeotti rapinatori. Sì, devono... Vabbè, va benissimo, a me sta bene, per carità. Ma adesso no. Che fai? Scorapinatore di che cosa? No, adesso non lo faccio più. Vabbè, quello era chiaro, se non ci chiamavi. Andare in galera a 50 anni non è che sia tanto favorevole fatto. Cioè, spiegami una cosa, che cosa rapinavi? Per quanto tempo? Raccontami un po' la tua storia. Allora, dammi, io ho iniziato a 21 anni. Che facevi? Facevamo le rapine. Le rapine dove? Non è che così a Napoli, anche ho iniziato a 21 anni, facevamo le rapine, ma non è la stessa cosa come dire ho iniziato a 21 anni, andavo a scuola, all'università. No, dopo la scuola, Dopo la scuola, hai iniziato a fare le rapine, ma dove? Come? Con le pistole, armati? No, nei primi tempi ero un pivellino, mi portavano perché dovevo imparare. Come normale, è ovvio, bravo, tu non sei fisso, quindi sai. Beh, sì, quando poi hai fatto la tua... il tuo bravo tirocinio. Sì, tirocinio, certo, le rapine. Bravo, perché c'è un tirocinio da superare. Sì. Passavi di grado da autista, passavi alla pistola. Sì. Ok. Poi è sottinteso che se tu vai a fare una rapina, non si balordi di Ercolano sul dei coglioni morti perché non servono un cazzo, meglio così. Non come l'albanese, che non serviva nemmeno lui. Perché non serviva l'albanese? Perché non sono... Allora, tu vai a fare una rapina, Luciano, tu devi essere preparato che prima o dopo un conflitto lo fai. O prima o dopo incappi in un carabiniere, in un poliziotto, in una guardia giurata. In un siciliano? Bravo, bravo, incappi. E che fai? E allora? E allora tu rispondi al fuoco, vendi vendicare la pelle. Se proprio proprio devi morire, muori, ma muori che ti difendi. Ho gabbizzato perché le rapine si facevano con un certo ingegno, Cruciano, non come i coglioni di oggi. Avevi un bassista, avevi chi fare e fare una rapina a settimana e viverci tutto il mese. Attenzione, Cruciano, non i 5.000 euro dei coglioni di Ercolano. Allora avevamo bassisti, fornitori e autisti. Allora dovevi essere consapevole che se usciva anche per non tornare più a casa, Cruciano. Vabbè, ho capito. Dunque, che ci vuoi dire, Carmine, con questo? Che è giusto che si difendano, Cioè, vedi, tutti gli ex ladri, Parenzo, che ci chiamano, tutti gli ex rapinatori, dicono che bisogna prepararsi al peggio, perché erano ladri seri, erano ladri che andavano incontro ad un pericolo e sapevano ladri che... Ladri seri, sì, ma certo, sì, erano ladri con di professione, di professione, cioè, sì, non erano, sì, non erano quattro cazzoni che poi le famiglie dicono era un bravo ragazzo, ma quale bravo ragazzo? Pare, guardi che c'è la differenza tra il rapinatore e un topo d'appartamento. Vabbè, sì, questo lo sappiamo che c'è una differenza. Bravo, il topo d'appartamento viene dopo il tossico. Viene il tossico e poi viene il topo d'appartamento. Che vuol dire prima dopo il tossico? La razza più sporca che esiste è il topo d'appartamento. Perché ruba. Ecco, addirittura adesso. Ruba, te lo dico io. Fidati. Non è che chi fa le rapine in banca o le rapine in un negozio sia un gentiluomo. Io conosco topi di appartamento che hanno rubato a casa dei familiari. Vabbè, ma quella... La razza più sporca, Cruciale, è il topo d'appartamento. Sentimi, fidati. Ma spiegami una cosa, ma interessanti, cioè, queste testimonianze di vita che chiamano. Tu hai chiamato per dirci che capisci il mitico siciliano che ha sparato, giusto? Sì, perché ho gambizzato. Sì. Io ho gambizzato, Cruciale. Come hai gambizzato, scusami? Ho dovuto gambizzare perché quando il personaggio ha cacciato la pistola e l'ho dovuto gambizzare. Cioè, il proprietario è giusto che il siciliano ha risposto, ha fatto bene perché l'abbattevole che andava a fare. Spiega, ma chi hai gambizzato tu? Sono molto interessato a questa cosa. Chi hai gambizzato? Ho gambizzato, Cruciano. Cioè, hai gambizzato uno che rapinavi? Cioè, una vittima di una rapina che ha reagito? Oh, è ovvio. Allora, ma dove? In un negozio? Dove andavi a fare rapina? No, il negozio non in strada. In strada chi? Scusa, come in strada? Che vuol dire strada? In strada, era una rapina a un furgone, una guardia giurata. Portavalori? Portavalori? No, esatto, era un rappresentante del gioielliere. Mazza, oh, ma mazza che ladro che sei stato, Carmine. Ma quanto ti sei beccato di galera? Mi sono fatto 8 anni. 8 anni, adesso che fai? Vedi che qualcuno fa galera. Adesso faccio l'autotrasportatore, Cruciano. L'autotrasportatore. Eh sì. È cambiata la vita, è cambiata la legge. Prima con la legge si potevi scherzare, ma adesso no, c'è sta. In che senso con la legge potevi scherzare? Grazie a 50, ti becchi 8, 9 anni, 10 anni, 12 anni, non è che sì. Esce a 62, esce già rinvogliato, Cruciano, da galera, dai. Ma tu hai fatto pure poco, vuoi dire? Sì, mi è andata bene, Cruciano. Mi è andata bene, mi è andata di gran lunga, sono bene, cazzo. Mi piace però questo rapporto confidenziale che tu hai subito con questi ex criminali. Ma scusa, queste telefonate non arrivano da nessun'altra parte. No, certo, c'è dubbio. Allora, chiaro, appello, no. Criminali italiani, perché ora quelli stranieri o la mafia straniera, lasciamola ai loro paesi. Telefonate, raccontateci all'800 24 00 24 il vostro rapporto con il crimine. Che pensi di Parenzo, Carmine? Tu che ascolti la Zanzara sempre, che pensi di Parenzo? Ma Parenzo è stato l'attore della barricata, quindi deve provare prima di venire dal lato nostro e poi tornare di nuovo. Beh, scusa, amico mio, anche io sono dall'altra parte della barricata. Chissà come mai non ti ha percepito tale, capito? Interessante. Ma tu, senza offesa a Parenzo, perché non ho il piacere di conoscerlo, sì. Ma tu sei più un bimbaccio da strada. Beh sì, sono un uomo del popolo, sono un uomo del popolo. Così sì. Fa credere, anche se è cresciuto in Piazza di Spagna, ma insomma così fa credere. Che cazzo c'è? Allora ti faccio un esempio. Allora, se io e Gondo Cruciani andiamo a Mignotte, Parenzo, mi fa piacere. Sì, è vero, questo mi fa è piacere vero. Che questo messaggio sia passato. Ma tu, scusa, ma Carmine. Questo mi fa piacere. Carmine, sai, questi 5 anni questo messaggio. Tu dov'è è che passato? Fai questo bene. Lavoro bene. Di camionista? Dove lo eserciti? In quali zone? Lombardia più Veneto fai. Cruciale. Lombardia più Veneto, ma la storia delle piazzuole, dei gay, è vero o non è vera? Non lo so, perché non ne ho bisogno, a me piace la figa. Vabbè, ma questo era chiaro, voglio dire, poi non è bisogno. Magari a 70-80 anni ti potrò dire, ho provato anche il ventolone nel culo, mi piace. Te lo potrò dire, fra 30 anni te lo potrò dire. Vai. Ma perché tra 30 anni? Scusa Carmine, che c'è bisogno di aspettare 20 anni, 30 anni? E fallo una volta, e via, no? Crucia, allora, io ti inizio in 80. Se poi lo provo e mi piace, ne mettiamo un altro, ne prendiamo ancora un altro, Crucia. Ma ho capito, ma guarda che è il rischio che corrono molte persone, quella che non lo voglio correre. Ma è vero la storia che nelle piazzole, per l'ennesima volta lo ripeto, che in alcune piazzole arrivano i gay a bussare e a chiedere prestazioni sessuali in cambio di soldi? Ma allora sì, ci sono alcune aree ma tutti le sanno, delle aree di servizio, le piazzole dove si danno un appuntamento, Vabbè. Pagano. E poi, ma tu vai a Mignotte ogni tanto o no? Sì, perché no? C'era un mignottone a casa io, Crucia. In che senso? Basta e mi avanza. Che vuoi dire? Tua moglie chi è? Crucia. E che è un mignottone? Che la chiami così? Scusami, caro. Perché sono nell'intimità, sto parlando con Cruciani, mica con Parenzo. Vabbè, ma chiamala un po'. Mi piace come vi siete. Carmine. Vi siete proprio trovati, interessante. Carmine, chiama un po'. Chiama tua moglie, dai, passaci da un'altra. Sta al lavoro, fa la barista, Cruciani. Vabbè, la barista, sì, però dacci un numero di telefono, così la chiamiamo, la moglie di Carmine, dai. La moglie di Carmine. Tutti i criminali del mondo che telefonano alla radio. Ma come non ti fare litigare? Ma è stupendo. Per prendere consigli da criminali, adesso oggettivamente mi pare un po' eccessivo. Non sta prendendo consigli, No, pare, non confondere. No, se poi vi trovate tu e Cruciani, perché avete questo background comune che sono le mignotte, per carità. Stiamo dicendo una cosa fondamentale. Carmine è intervenuto per dire, da ex ladro faceva le rapine. Tu capisce il mitico siciliano quando ha sparato a quello. Questa è la cosa fondamentale. Allora, Cruciani. Poi abbiamo cominciato a parlare di altre cose. Ma che titolo parla questo qui? Cioè adesso non è che siccome è un criminale ci dà lezioni su chi può sparare e chi non può sparare. Oh. Allora Carmine? No, ma è previsto. Io esco su, allora adesso faccio l'autista. Io tutte le mattine metto in conto che non posso tornare a casa. Posso fare un incidente. E la stessa cosa un ladro. La stessa cosa un ladro. Tu vai a delinquere. Se ti va male non torni a casa. Se ti va bene ti arresti. Ma guarda che la voce della saggezza, Carmine, ex rapinatore, la voce della saggezza. Adesso mi pare un po' eccessivo. Ma assolutamente. Ciao Carmine, a presto, amico mio. Ciao. Diventerò amico di tutti i criminali d'Italia, sono sicuro che diventerò amico di tutti. Beh, i peggiori c'è però criminali. Qualcosa di interessante in questo, no? Sì, è l'innamoramento per i mostri di questa trasmissione, mostri o presunti tali. Grande rubrica nuova della Zanzara, la nuova grande rubrica della Zanzara è i Razzi Files. Le rivelazioni del senatore di Forza Italia Antonio Razzi, prima puntata. Antonio Razzi ci spiega e ci dice tutta la verità. Sì, la verità, non la verità. La verità, nient'altro che la verità sul suo passaggio da Di Pietro a Berlusconi.

Beh, quella, questa è eccezionale. Invece di matrimoni si dovrebbero chiamare culimoni. Beh, l'aveva, se non sbaglio, detto già da noi qualche volta questo. No, culimoni forse no. Sì, sì, hanno, sì. Sì, aveva, assicuro, l'aveva battezzato in questo modo, i culimoni. Beh, eccezionale. Assicuro, professore è sempre professore, non c'ho cazzo da fare, dai. Carmelo Bene, di cui io in qualche modo sono stato lungamente amico e gli ho portato anche via due o tre fidanzate per alleggerirlo di quello sforzo che lui doveva fare a sostenere, dopo che ci siamo riappacificati, ha fatto un libro dicendo: io odio la famiglia, io neanche la odio, la considero pericolosa, inutile, dannosa alla società, io. Lui invece la odiava. Ma in realtà Vittorio non la considera affatto pericolosa e dannosa, no, cioè la considera pericolosa e dannosa nella sua versione, nella versione giovanile, diciamo, nel rapporto fisso uomo-donna. In realtà per la madre è una specie di adorazione, e il rapporto tra uomo e tra Vittorio e la madre, che cos'è se non un rapporto anche familiare, insomma, per cui in realtà sì, dice che odia la famiglia, ma in realtà sua madre no, non ne costituirebbe, non è che odia la famiglia, lui dice che non ne costituirebbe una, capito? Ho capito. Ma non è che odia la sua, no, questo è importante, non è che odia la sua, io lo conosco bene da questo punto di vista, non è che odia la sua di origine, anzi, lui anche almeno una volta a settimana va dalla Rina a Ferrara, io sono stato a Ferrara a casa sua, sì, certo, con Elisabetta, fa queste cene col papà, con la mamma, a un certo punto si alza, manda a fanculo qualcuno al telefono, poi ritorna, mangia i tortellini, accarezza la mamma, ma non è vero che lui è contro la sua famiglia di origine, no, lui non è d'accordo. In grado, lui dice: io non voglio farmi la mia famiglia. No, dice anche che è dannosa però la famiglia, nel suo caso no, che cosa lui... è stata allora? È stata dannosa? È stata, no, cioè, no, nasce da una famiglia, un no? Cioè, In questo mondo è evidente che il padre che ha fatto una scopatina di 5 minuti vuole delle quote di maternità. Cioè, di fatto, chi è il padre? Può anche essere un altro. Molti non sanno neanche se sono loro. Io ho avuto molti figli di donne che gli hanno attribuiti al loro marito cornuto e anche titolare. Io ho due o tre casi emblematici in cui io sono il fecondatore assistito, cioè assistente, anzi, in questo caso. Ma non ho capito questo concetto. Oggi i padri per una scopatina vogliono la quota di paternità. Risentiamo un attimo questo passaggio. In questo mondo è evidente che il padre che ha fatto una scopatina di 5 minuti vuole delle quote di maternità. Cioè, di fatto, chi è il padre? Può anche essere un altro. Molti non sanno neanche se sono loro. Io ho avuto molti figli di donne che gli hanno tributato. Ma subiscono, nel suo caso, subiscono la paternità, perché lui diventa padre senza volerlo, appunto per avere scopato 5 minuti con qualcuno. Meglio due padri che nessuno. Cioè, tu prendi un ragazzo dell'Etiopia che è messo in un ospedale, come si chiama, l'orfanotrofio, senza nessuno, con la madre vera che lo ha abbandonato, certo che chiunque si occupi di lui, che sia maschio o femmina, che si chiami famiglia, anche Giovanardi, che ha un cuore di pietra, capirà che è meglio che nessuno. Vabbè, dai, andiamo a Matteo Roma, vai. Ciao bello, scusa. Ciao bello, non la sentivo da una vita. Ciao bello, però comunque va bene, vai. Però si dice, dai. Si dice, si dice, ciao bello. Ciao bello, bella prova, zio. Ma che c'hai, la bocca piena da che? Ah, bello, ciao zio, hai vinto bene. Di? Salame, quello di Corallina. Di Corallina. Io lo sai, però aspetta un attimo, Matteo, aspetti 5 minuti, io sto provando a chiamare da mezz'ora sto cazzo di assessore, com'è che si chiama quello della torta che con l'SS? Giorgetti. Vediamo un po' se sì, come quello della Lega, che invece però ma come pure persona. Un altro di no, di Forza Giorgetti Italia, della Lega, dico, è una brava persona. Vabbè, perché questo che è un criminale, ha ricevuto una torta di no, compleanno criminale, no, ma che è una mezz'ora, è una che non prende la linea, non prende la linea. Pronto, Giorgetti? Sì, sono io. Sono Cruciani, che mi ha combinato, caro Giorgetti? Io? Niente. Beh, questa torta di compleanno, no? E mica l'ho fatta io. Vabbè, caro Giorgetti, ho capito, non l'ha fatta lei, però sempre SS col fascio littorio c'è scritto, o no? Ma allora, guardi, deve parlare con quelli che hanno organizzato la festa, poi... Vabbè, ma l'ha pubblicata pure lei sul suo profilo, cioè non mi sembra che sia vergognato della scritta SS, o no? Beh, intanto la scritta SS sinceramente non fa parte del mio bagaglio né politico né culturale, non c'è pericolo. Beh, ho capito, però non mi sembra che lei poi abbia... Poi l'ho letta, poi non... Come non l'ho letta? L'ha postata sul suo profilo? Ma ho capito, le ho detto che la SS io non l'ho vista. Ah, non l'ha vista, c'è la l'ha letta qualcun altro vedendo. Ma è abbastanza chiaro, c'è i vizi. C'è il, c'è il... Se per lei uno schizzo di panna fa SS. Beh, adesso non è che lo schizzo di panna così è uno schizzo qualunque. SS è chiaramente voluto, o no? No, ma io non sono assolutamente, le dico, del fascio della targa dei San Gallo, per carità. Beh, c'è pure il fascio Littorio lì. Ma io del fascio Littorio mica mi vergogno. Fa parte della nostra storia, tanto della mia quanto della sua. Cioè lei è fascista, scusi? È un fatto storico. No, è un fatto storico, d'accordo, ma si sente ancora un po'... Il fascismo è stato consegnato alla storia. Beh, mi hanno fatto quell'omaggio, sì? Appunto, mi ha fatto piacere assieme a tanti altri. Cioè per lei, insomma, non si vergogna di quella torta? Ma assolutamente no. Ripeto, le SS non c'entrano nulla. E io non le ho lette, sinceramente. Non le ha lette? Se non fa parte. E come le ha lette? Come... della mia tradizione. Non me ne sono proprio accorto nei ricami che c'erano sulla torta. Il buon compleanno, non... assieme ad altri, non l'ho letto. Senta un attimo, Giorgetti, sono Parenzo. Mi dica tutto. Siccome ho molta nausea, quando ho visto quella cosa lì mi è venuto il vomito. E quindi ho ancora i conati, se ne parlo. Quindi. Ha già firmato la lettera di dimissione dalla vicepresidente? La torta era molto buona, si figuri se mi metto per queste cose qua. Tra l'altro, scusi, la torta lei la conosceva anche prima, cioè non è che l'ha saputa solamente? No, l'ho vista. È stata una sorpresa, diciamo. Cioè, in tutta la festa, e l'ho anche scritto, è stata una sorpresa. Comunque lei è tranquillissimo, non gliene frega assolutamente nulla delle polemiche, eccetera, la torta col fascio Littorio, con la scritta SS. Potrei rispondere con un me ne frego, siccome fascista non sono, non glielo dico. Un po' lo pensa me ne frego, insomma. Almeno la libertà di pensiero è rimasta. Vabbè, ma un'altra volta lei ha pubblicato una cosa per Natale, non mi ricordo, qualche anno fa, no? Sì. Buon Natale camerata. Buon Natale camerata. Vabbè, insomma. Ma Parenzo, secondo te una persona che fa così ha un ruolo pubblico? Andrebbe internato, ma in un ospedale. Ma lo stai pigliando per un parto, lo stai trattando come un psichiatrico. Un campo di concentramento mi vorrebbe internare. In un gulag. Io no, ecco, lei che mai. Il gulag è più adatto. E questo è quello che avete fatto voi negli anni 30, diciamo. Ma a parte questa visita obbligatoria medica, clinica che andrebbe fatta, fossi in lui mi vergognerei talmente tanto per aver inneggiato al fascismo, Camerati. Adesso non si può dire Camerati. Io credo che lui ha un ruolo istituzionale anche, vicepresidente della regione Veneto. Io mi vergognerei come un verme fossi lui. Guarda, non diventerò mai rosso di vergogna. Comunque... Al contrario di tanti che dovrebbero vergognarsi, perché esaltare un dittatore negatore dei diritti civili come Raul Castro, come ho letto stamattina, che ha fatto presidente del Consiglio, permettetemi, mi fa molta più impressione che non... un fatto storico finito. Cioè lei dice peggio Renzi che è andato a Cuba di Mussolini? Molto peggio il fatto che Renzi non abbia condannato il castrismo piuttosto che la torta di compleanno col fascio Littorio. Ma sì, è come Napolitano che non ha mai condannato l'invasione d'Ungheria, anzi l'ha esaltata. Ma scusi Giorgetti, ma lei qualche cosa del fascismo la salva o no? Ma io, fino alle leggi razziali, sicuramente. Cioè, fino alle leggi razziali è stato un buon governo, diciamo. Sì. Ha modernizzato l'Italia. Dunque, ha sbagliato, Mussolini ha sbagliato solo con le leggi razziali. E l'alleanza con Hitler, per quello le dicevo che le SS non c'entrano nulla. Per il resto ha fatto bene, ha governato bene l'Italia. Guardi, la maggioranza degli italiani la pensa come lei. Anche sicuramente sì. Guardi. Grazie, arrivederci Giorgetti, arrivederci, grazie. A lei, buona giornata. Matteo, quanti anni hai? 21. A te del fascismo, non fascismo, ste cazzate, la torta con la SS, niente, frega a cazzo. Ma che cazzate? No, ma che, certo che mi frega quello lì. C'ha ragione Parenzo quando si incazza, ma... Perché? Vabbè, ma c'è una legge nella Costituzione, certo, che cazzo ce ne appelliamo tutti i giorni nei nostri valori di vita. Cioè, l'apologia al fascismo è un reato, quella lì è l'apologia al fascismo. Ma sì, qua l'apologia del fascismo, dai. A parte che andrebbe cancellata, secondo me, quella legge. Questo è un altro discorso, vai. Ma perché andrebbe cancellato? Ma sì, ma sono cose inutili, dai, ma fanno solo perdere tempo i tribunali, le cose, ognuno ha le sue passioni, le sue cose. Vabbè, da una parte finché non parte diventa vero, finché non diventa anche viva lo stupro. Ma che sì. C'entra quello? Quella è un'incitazione a reato, è diverso, dai. Un sacco di famiglie, io vengo da una famiglia ebraica, per esempio, ho avuto dei parenti che sono stati in campi di concentramento. E vabbè, capito, ma fregatene, di diciamo, ma chi se ne frega, la famiglia non esistono le famiglie. Ma no, infatti vorrete con quel coso di Hitler se guardavamo per cambiare sempre a stronzetto, vabbè, quello lì è il tuo mestiere. Ma io era una provocazione sulla proposta di legge di vietare il commercio dei cimeli. Vabbè, Matteo, che mi volevi dire? Infatti ti sono bene. No, io volevo dire no, che te sei un po' paraculo, perché quando Parenzo ti dice che chi va per strada a mignotte è un miserabile, sì, e te fai finta di non capire. Non è che faccio finta di capire, non sono d'accordo, certo. Non sono d'accordo che è un miserabile, è uno che cerca sesso, punto. D'accordo. La legge del mercato, do ut des, io ti do i soldi, tu mi dai sesso, io dare soldi, ma tu io dare sono sesso. Assolutamente d'accordo, ma viva le case chiuse. Ma quello è chiaro, che c'entra? Ma se qualcuno invece vuole andare più, scusa, ma l'80% delle persone, delle puttane per strada sono sfruttate. È uno di buon senso questo qui, che se grazie, Parenzo, le voglio no, bene. No, ma mi pare evidente che ma non dite diciamo cazzate, delle cose normali noi, non è uno che siamo sta per strada per, semplicemente tu perché vai 10 volte a puttane, 8 volte hai sfruttato una persona, praticamente una persona che non voleva fare sesso, tu ci hai fatto sesso, perciò io lo paragonerei allo stupro in realtà. Ma cosa? Assolutamente sì. Ma cosa certo, paragoneresti? Una persona che non è quella lì viene obbligata a fare sesso per pagamento, adesso lo stupro, per dai, lo stupro addirittura, dai. Beh, qua quasi. Diciamo che è un crimine simile, perché quella lì viene sfruttata. Ma certo, è chiaro che uno dice. Dai, non dire stupidaggine, Matteo, non è così, dai, non è così. Ma come ha ragione? Basta, chiudiamo, andiamo a casa. Siete due moralisti, no. Del cazzo, dai. No, non sono moralista. Ma no, siete no, due moralisti sì. Ridicoli, dai. Vabbè, volevo dire una cosa più interessante a parte dimmi. Di questo, no? Che il vostro amico Red Ronnie dice che è vegano, vegetariano, sì. Non so, mangia verdure e non scureggia più. Me lo confermate? Dice così lui. No. Io devo dire che mangio molta poca carne, sì. Però ve lo può confermare pure mio cugino Giulio, che mangiava sempre un sacco di verdure. Tuo cugino Giulio, le lenticchie, sì. Sì, sì, che allora? Mi ha ascoltato. Allora, l'altro giorno abbiamo fatto una zuppa di cavolo nero. Sì, hai scoraggiato la grande. Che bombe poi. Mamma mia, altro che forni olandesi. Casa, altro che forni olandesi. Cavolo nero, sauvage. Ciao Matteo. Delle scoregge da leccarsi i baffi. Bella, questa è buona, eh. Delle scoregge da leccarsi i baffi. A domani, 18:30, ciao. Sono rotto i coglioni, addio. Ciao, zanzara di merda. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E Cruciani, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Radio 24, la passione si sente.